vidi, ascolti, sarei più vi volas ascolti. Sentas, sole chiu vi volas senti. Fido, sole chiu vi volas fidal. Memori, sole chiu vi volas memori. Forgesi, sole chiu vi volas forgesi. Go.